Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute a Mebius, ciao Chiara. Eccoci, ciao Federico, buonasera a tutti. Incominciamo da? Cominciamo da Tutankhamon, che nonostante tutti questi anni continua ancora a stupirci. Non finisce mai di darci notizie questo ragazzo. E poi sempre anche in tema di ragazzi parleremo di un'attività molto difficile da svolgere, che è la terapia familiare. E poi parliamo di un'app che si chiama Di Arianna, che aiuterebbe gli adolescenti a bere un po' meno alcol. E sembra che funzioni. Partiamo. Via. Tutankhamon, di lui parliamo questa sera. Ancora, altre novità su di lui. È vero, è una fonte inesauribile e qui a Mebius è apparso più volte e questa volta però parleremo del suo coltello. Pensate un po', con noi è Daniela Comelli. Buonasera Comelli. Buonasera. Lei è docente al Politecnico di Milano, docente di fisica ed è del Dipartimento di Fisica. Adesso molti diranno, ma che cosa c'entra una fisica con Tutankhamon? Senta, allora, intanto brevissima sintesi iniziale. Tutankhamon, faraone, muore a 19 anni nel 1924, se non sbaglio, no? La scoperta... 1922 è stata trovata la tomba, ecco. Nel 1925 è stato aperto il sarcofago. Perché Howard Carter, questo archeologo inglese, si trovò di fronte a praticamente una roba completamente piena, no? Si dovette estrarre pezzettino per pezzettino e si arrivò al sarcofago dopo due o tre anni. Sì. Ecco, allora, e praticamente con la scoperta di questa tomba noi abbiamo le informazioni sull'Egitto in abbondanza che prima non erano assolutamente possibili, perché queste tombe venivano depredate anche rapidamente, no? Subito dopo le sepolture dei faraoni, già allora avveniva questo. Sì. C'è da dire che erano anche molto ricche, quindi esatto, erano piene di roba. Giustificavano. Tutankhamon invece non riuscirono a scovare la tomba ed è arrivata fino a noi. E allora dicevi il coltello. Oh. Intanto forse non tutti sapevano che Tutankhamon indossasse un coltello. Dove era posizionato? Era un pugnale. In realtà nel sarcofago sono stati trovati due pugnali, uno d'oro e uno in ferro. Quello in ferro era appoggiato vicino alla coscia, insieme alle bende della mummia. E l'interesse verso questo pugnale è principalmente per il metallo di cui era fatto, perché appunto appariva come fatto di ferro e ai tempi di Tutankhamon non c'era ancora la capacità di fondere e forgiare il ferro. Ecco, attenzione, quindi questa è proprio la novità di cui vogliamo parlare, perché questo pugnale di ferro nasconde questo mistero che però è stato svelato. Ecco, ma scusi Comelli, non solo lei dice non c'era la capacità di diffondere il ferro, però c'erano oggetti di ferro. Sì, in epoca, diciamo che non solo in Egitto, in epoca antecedente all'età del ferro sono stati comunque ritrovati degli oggetti datati appunto in epoca precedente fatti in ferro. E questi potevano essere o fatti in ferro meteoritico oppure fatti con ferro terrestre ottenuto in genere casualmente durante la fusione del bronzo. Ah, ok. Lei poco fa ha usato un aggettivo non da poco, ferro meteoritico. Vuol dire che siete riusciti a stabilire che quella lama è stata estratta da un meteorite. Allora, caduto chissà dove, però lì in Egitto. Sì, probabilmente sì. Diciamo che sicuramente quello che la ricerca ha confermato è che è un ferro meteoritico, cioè estratto da una meteorite ferrosa. E questo è stato evinto grazie alla composizione del ferro, con un'alta percentuale di nichel e alcune tracce di cobalto. Che sono percentuali che non ci sono nel ferro terrestre, diciamo? Che non ci sono nel ferro terrestre, perché ovviamente il ferro terrestre, soprattutto per quanto riguarda il nichel, ha una percentuale molto più bassa. Diciamo che in ferro estratto da cava terrestre la percentuale di nichel al massimo raggiunge il 3%. Ovviamente si possono trovare oggi oggetti di ferro con una più alta percentuale di nichel facendo delle leghe, ma la tecnologia che era disponibile all'epoca non era pensabile. Assolutamente, anzi. la tecnologia per le leghe è arrivata molto molto dopo. Ma quindi ci aspettiamo che loro avessero trovato, diciamo, la disponibilità di questo ferro e l'avessero a quel punto lavorato. Sì, è questa l'ipotesi, che appunto sia stato trovato un pezzo di meteorite che sia stato lavorato. La domanda è con che tecnologia è stato lavorato. Tendenzialmente il ferro meteoritico all'epoca di Tutankhamon veniva lavorato a freddo, quindi battuto con martelli, insomma con la tecnologia del ferro battuto. Bisogna dire che la finitura della lama del pugnale di Tutankhamon è una finitura molto buona, quindi indica che in quel periodo avevano acquisito una certa competenza nel lavorare il ferro. Lei dice l'hanno battuto con una certa capacità per tirar fuori. Quanto è grande questo coltello? È lungo, la lama è lunga circa 30 centimetri, quindi è un bel coltello. E poi il fatto che ce l'avesse sul corpo, che lo portasse appunto attaccato al corpo, dà a questo coltello, non so, un significato particolare? Era particolarmente importante per il faraone? Sì, c'è un'ipotesi, sì, assolutamente. Diciamo che non siamo così certi che loro non avessero capito che questi pezzi di metallo particolare che trovavano nel deserto non fossero pezzi che arrivavano dal cielo. Dal cielo. Questo perché era stato coniato in un periodo poco antecedente, all'epoca di Tutankhamon, un nuovo termine, un nuovo geroglifico, Baemtet, che è tradotto letteralmente come ferro del cielo. E questo indica che probabilmente loro in realtà avessero capito che fossero pezzi di ferro, di metallo, che arrivava dal cielo. Cui probabilmente davano un significato un po' celestiale. Particolare. Però, Daniela, come lì, si può effettivamente anche assistere a un meteorite che viene giù, piccolo, certo, no? Sì, quindi probabilmente... Poi, loro avevano sicuramente una maggiore attenzione di quella che abbiamo noi in epoca moderna ai fenomeni naturali. Quindi è possibile che loro avessero compreso molto prima di noi l'esistenza della caduta delle meteoriti. Certo. Dove si trova questo coltello? Al Cairo, al museo? Al Cairo, al museo egizio, quello centrale, a Tahrir Square. E come succede che lei, insomma, si è interessata a questo coltello? Come è successo? Diciamo che la mia attività di ricerca è incentrata nell'ambito delle analisi scientifiche, principalmente non distruttive per i beni culturali. E abbiamo un progetto bilaterale che da poco è terminato, nel triennio 2013-2015, che era proprio focalizzato sullo sviluppo e l'applicazione, ottimizzazione di nuove tecniche per lo studio di manufatti antichi dell'antico Egitto. E quando siamo andati al Museo del Cairo per analizzare anche altri reperti, ci siamo riusciti a ottenere l'accesso alle analisi della spada, del pugnale di Tutankhamon, che si è rivelato un'analisi molto interessante. Poi devo dire, per essere corretto ovviamente, coinvolgere tutte le persone che sono state coinvolte in questa ricerca, oltre a noi un importantissimo ruolo è stato quello dei colleghi dell'Università di Pisa, che sono invece gli scienziati della Terra all'interno di questa ricerca, esperti di meteoriti, che originalmente 2 o 3 anni prima avevano proposto la ricerca, ma non erano riusciti ad ottenere l'accesso al pugnale per analizzarlo. Ci avevano visto lungo. Quindi, diciamo, sì, poi devo dire, era un dibattito molto aperto in ambito archeologico e egittologico. Quindi abbiamo messo, diciamo, ordine, abbiamo messo le cose in chiaro. Sì, esatto. Daniela Comelli, grazie per questa suggestiva storia. Grazie a voi e buonasera a tutti. Buone ricerche. Tortona vuole uscire dall'Europa. Sull'autostrada dei Fiori al chilometro 60 c'è un sacco di gente. Sentiamo cosa ci dicono quelli del traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto qui a Mebius affrontiamo dei temi difficili e ve lo diciamo all'inizio, ma sono difficili e affascinanti. E tra questi temi difficili ce ne sono alcuni che riguardano non tanto un'invenzione, non tanto una ricerca specifica da raccontare, ma riguardano il modo in cui si fa una particolare ricerca. E questo è ciò di cui andiamo a parlarvi in un caso particolare. Parleremo di terapia familiare. È uscito un libro edito da Raffaello Cortina Editore, Entrare in terapia. Gli autori sono Stefano Cirillo, Matteo Selvini, Anna Maria Sorrentino, e Matteo Selvini è qui con noi questa sera. Buonasera Salvini. Buonasera. Allora, vado a descrivere, però prima ci vuole una, cioè bisogno di una premessa. Andiamo a descrivere che cos'è questa difficoltà di lavorare nella vostra attività di ricerca. Però un minuto su che cos'è terapia familiare. Ma per terapia familiare si intende quando una famiglia è preoccupata per un figlio, di solito una figlia, o anche a volte per un partner che invece fa fatica a chiedere aiuto per se stesso, e questo è un caso molto frequente, specialmente ovviamente nel caso di bambini che non sono neanche in grado, diciamo, di chiedere aiuto. Ma il settore forse più interessante è quello degli adolescenti, che spesso manifestano degli evidenti problemi che tendono a negare, a minimizzare e a banalizzare. In questo caso le famiglie giustamente hanno delle preoccupazioni, e come gestire questa preoccupazione è appunto un problema ipercomplesso che ha avuto tante tante risposte nella storia della psicoterapia. Ecco, direi che lei ha dato una descrizione media buona, poi dopo, sfogliando il vostro libro, direi che se volete decidere di acquistarlo, apritelo e andate a vedere qualche pagina con i caratteri più piccoli, ci sono descritti dei casi. E io sono rimasto assolutamente sorpreso, perché ci sono dei casi in cui l'intrico familiare e i problemi sono micidiali, tremendi. Quindi la prima cosa che mi viene a dire è che siete anche dei ricercatori, degli scienziati molto coraggiosi, perché mettere le mani in queste situazioni sembra davvero impossibile. Perché mi sembra impossibile? Beh, è spiegato nell'introduzione. Le pagine introduttive del vostro testo sono piene di punti di domanda che vi fate, cioè come si fa a decidere che cosa è giusto agire in una situazione come questa, dove c'è un figlio, una figlia, il padre con problemi, la madre con problemi, una grande complessità, e voi dovete in qualche modo decidere di intervenire. Ma la cosa che appunto mi ha sorpreso molto è che c'è un livello di incertezza però ineludibile, non si può fare diversamente. Infatti la complessità nasce proprio dal fatto che, non so, prendiamo il caso più classico di una famiglia preoccupata perché il figlio adolescente fa un uso eccessivo di cannabis, mettiamo, settore dove è sempre difficile decidere il limite tra la ricreazione e la problematica seria. La nostra ricerca è partita dalla constatazione che nel nostro campo la psicoterapia ha molto bisogno di ricerca, proprio perché si vede che professionisti diversi, bravissimi, qualificatissimi, fanno cose completamente diverse. Allora ci saranno quelli che vogliono vedere solo il ragazzino, quelli che vogliono vedere soltanto i genitori per più volte, quelli che vogliono vedere tutta la famiglia, quelli che preferiscono fare prima un'esplorazione medica o psichiatrica, quelli che puntano sui gruppi. È veramente un mondo estremamente complesso, e quello che noi abbiamo cercato di fare con questo libro è di cercare di fondare quelle che nella nostra esperienza ormai di tanti decine di anni di questa pratica, cosa si dimostra più efficace. Quindi ci siamo dati delle linee guida. Ad esempio, in questo caso noi abbiamo deciso, sulla base della nostra ricerca, che almeno iniziare il primo colloquio con il ragazzino, con i suoi genitori, escludendo fratelli e sorelle, fosse la modalità più efficace. Perché dico più efficace? Perché in questo campo il rischio di abbandono della terapia è elevatissimo. Perché ad esempio prendiamo le statistiche, le ricerche degli adolescenti che vengono, come questo, che vengono preso individualmente dal professionista, è la percentuale di ragazzi che dopo 4, 5, 6 incontri interrompono è elevatissima, arriva anche all'80%. Oppure ci sono casi in cui questa cosa può essere anche controproducente, perché mettiamo che questo adolescente abbia già un vissuto di essere poco vicino ai suoi genitori, alla lunga il fatto che i genitori l'abbiano delegato a un esperto potrebbe addirittura essere controproducente, nonostante che l'esperto potrebbe essere bravissimo, ma è la situazione in se stessa che crea una sofferenza ulteriore per il ragazzo, che vorrebbe stare più vicino a sua madre, a suo padre, e invece loro sono lavati le mani delegandolo al tecnico. Certo. Di qui l'ipercomplessità. Una cosa che non ho capito è che voi potete pensare anche di iniziare con il soggetto che è più al centro del problema, anche se in alcune casistiche Quasi impossibile. Sì. No, dico, ma anche gli altri hanno una marea di problemi, cioè ci sono Chiaro. Dei casi in cui... Però poi c'è per forza un momento in cui dovete gestire tutto insieme, oppure cosa fate? Mantenete un'azione su un genitore, poi l'altro, poi i figli? Come diciamo, si fa? Diciamo che la complessità nasce dal fatto che la massima efficacia si ottiene quando tutti collaborano. E allora, di solito in prima battuta dobbiamo evitare che semplicemente i familiari ci consegnino il loro pacchettino, il loro figlio problematico, e quindi spesso la battaglia è far capire ai genitori e anche a volte ai fratelli e sorelle che il loro contributo può essere importantissimo. Quindi già nei primi incontri vediamo dove stanno le risorse, perché quando a volte troviamo dei fratelli, dei genitori che hanno delle risorse psicologiche, affettive, che sono fantastiche, che vediamo che veramente possono accompagnare seriamente il loro figlio o fratello nello stare meglio, nel condividere i suoi problemi, nell'affrontarli. Altre volte purtroppo no. Altre volte ci troviamo di fronte a delle persone che purtroppo, essendo magari loro stessi molto sofferenti, possono risultare molto distruttive. Allora si devono fare anche delle scelte, no? Di andare avanti con chi è in grado di collaborare. Purtroppo non è sempre questo, insomma. Va bene, ancora complimenti per il coraggio. Entrare in terapia, Raffaello Cortina, editore. Grazie Salvini. Grazie. Adesso vi parliamo di una cosa che funziona bene per un problema piuttosto grosso, ed è l'alcolismo nei giovani. Ne parliamo con Giuseppe Carrà. Buonasera Carrà. Buonasera. Ai suoi ascoltatori. E lei è un ricercatore in psichiatria dell'Università Milano Bicocca, e ciò di cui stiamo parlando è una ricerca, anzi è un oggetto concreto che avete costruito insieme ad altri colleghi della University College of London. Si chiama D-Arianna. Che esatto. Cos'è? È un'app che quindi ci si monta sul ci sì. si inserisce sullo smartphone. In che modo funziona? Riducendo il consumo d'alcol nei giovani. La nostra app è stata pensata come tentativo di unire rigore scientifico con semplicità d'uso, qual è quella richiesta dalla popolazione giovanile interessata dal problema dell'uso di alcol eccessivo. Nella nostra app, in buona sostanza, sono elencati tutta una serie di fattori di rischio, in particolare quelli che noi chiamiamo fattori di rischio modificabili, e messi insieme attraverso dei procedimenti di natura matematica forniscono all'utente, attraverso una semplice serie di domande, un profilo del suo rischio complessivo. Allora, facciamo un esempio. Io sono un adolescente a cui piace bere un po' di birra la sera. Ecco, io scarico la vostra app, che è appunto di Arianna. Ho visto sul cellulare che c'è la possibilità di scaricarla sia in italiano che in inglese, d'accordo? Esatto. Che cosa succede a questo punto? Mi fanno delle domande alle quali io rispondo, poi? Alla fine vengo informato di quello che è il mio rischio complessivo. Che tipo di domande sono allora? Ad esempio, per esempio, una cosa molto semplice è se la compagnia con cui ci si usa accompagnare è a sua volta dedita all'uso eccessivo di alcol, se la serata tipo è quella appunto pizza e cinema piuttosto che invece un pub, ma sono tutti fattori di rischio che la letteratura scientifica ha individuato come altamente predittivi di un grave rischio di binge drinking in particolare. Ma immagino che appunto poi venga fuori che tanti siano gli adolescenti al quale il rischio è abbastanza elevato. E a questo punto noi forniamo l'elenco dei fattori di rischio modificabili. Cioè, per esempio, se molto banalmente cambio in toto in parte il mio tipo di compagnia, se per esempio smetto di usare altre sostanze che invece sono appunto dei fattori di rischio aggiuntivo, se per esempio verifico che alcune delle attività tipo della mia giornata tipo possono condurmi a quel tipo di rischio di binge drinking, e fornisco anche l'informazione di quanto il rischio possa essere ridotto se riesco a modificare anche solo uno o due di questi approcci, di questi comportamenti. Voi avete fatto degli esperimenti sul campo e risultano riduzioni in questo comportamento significative? Sì, è stato un interessante esperimento naturale, perché al di là del rigore con cui è stato costruito il metodo, ci siamo proprio posti il problema: ma in effetti che impatto ha? E abbiamo reclutato alcune centinaia di giovani nei classici luoghi della movida milanese, dalle colonne di San Lorenzo ai principali pub, e con dei facilitatori di pari età, in modo tale da poter così vincere l'eventuale resistenza della nostra popolazione di riferimento. Abbiamo facilitato appunto l'utilizzo dell'app e siamo poi andati a verificare quello che accadeva almeno a 2 settimane dalla somministrazione, e appunto abbiamo verificato che c'era una significativa riduzione di questi comportamenti di uso eccessivo di alcol. Quindi di fatto hanno seguito i vostri consigli e in effetti hanno avuto giovamento, insomma ci sono stati benefici. Esattamente, perché la concettualizzazione alla base di questa app è che l'informazione veicolata in modo adeguato alla popolazione obiettivo può influire positivamente su quello che è il decision making. L'analisi decisionale è un elemento fondamentale anche in una popolazione di così giovane età. La cosa significativa mi pare la seguente, perché queste informazioni sui rischi ne siamo pieni di trasmissioni televisive, articoli sui giornali, radio, però se arriva in questo modo funziona, in tutti gli altri modi invece sembrerebbe non funzionare. Cioè utilizzando un mezzo familiare agli adolescenti. Sì, personale, con un dialogo a quattro occhi con l'app, diciamo. Esattamente, è uno dei razionali che hanno spinto il nostro studio. Allora abbiamo provato appunto a capire quale potesse essere invece il veicolo più affine alla nostra popolazione di riferimento, e l'app in prima battuta ci è sembrato quello più affine. Abbiamo tuttavia delle progettualità per avvicinarci ancora di più alle caratteristiche di questa popolazione. Stiamo progettando la possibilità di una gamification. Cos'è una gamification? In buona sostanza, mantenendo il razionale di robustezza scientifico del nostro modello sottostante, vorremmo fare una piccola app in forma di videogioco. Quindi anche interattiva. Più coinvolgente, ancora più coinvolgente. Una storia attraverso cui il soggetto si possa immedesimare. Giuseppe Carrà, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buonasera. Per trovare il link per scaricare l'app di Arianna di cui abbiamo appena parlato potete andare sul nostro blog www.radio24.it. Come sempre potete scriverci le mail quando volete a mebius@radio24.it. Per oggi è tutto. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao. Ciao.